Credo che alla fine si trattasse della stessa paura che avevo da bambino, quando c'era qualcuno più bravo, più bello e più forte di me. Era la paura di sentirsi invisibile. Una paura che avevo provato spesso anche in età adulta. L'ultima volta mi trovavo in un museo e stavo guardando una foto enorme e illuminata. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Forse mi sbaglio, però ho sempre avuto la convinzione che se l'arte fosse semplice, non esisterebbero le cose brutte. Cioè, se fare e riconoscere le cose belle non presupponesse fatica, non avremmo bisogno di programmi brutti in prima serata, di romanzi scadenti o di canzoni mediocri da sentire per alleggerire le nostre giornate. L'arte non è facile, però è democratica. Cioè, tutti possono accederci, ma per arrivarci serve un piccolo sforzo. Voglio dire che la prima lettura per un quadro di Chagall probabilmente non è sufficiente, nemmeno per una terzina dantesca lo è. Io tutte le volte che sono entrato in una galleria, o in un museo, o ad una mostra, non ci ho quasi mai capito niente. Mi sono sempre aggirato per i corridoi e per le sale con la stessa noia stupida di quando mi ci portavano alle elementari. È per quello che ho capito che l'arte è democratica, ma è complicata. Perché potevo accederci, però sentivo che mi mancava qualcosa per godermela. Poi qualche anno fa, un giorno, ho visto una cosa. L'ho vista in un museo. Era una fotografia, però avrebbe potuto essere un quadro, l'ho capito poi, una scultura o una canzone. E io con la fotografia mi sono ritrovato lì a guardarla inebetito per parecchio tempo. Non so nemmeno se l'ho capita, che poi forse non c'era niente da capire. Non so come mi è arrivata né perché. So però che da quel giorno lì, quando penso ad un'opera d'arte, qualsiasi cosa questo significhi, opera d'arte intendo dire, penso a quella fotografia lì. Una fotografia di Jeff Wall che si intitola After Invisible Man. E a volte mi trovo a riguardarmela o a ripensarci, anche semplicemente se ho voglia di qualcosa di bello. Come fosse un gelato per addolcirsi la giornata, o un bacio per renderla più eccitante. Non so se voi avete un'opera d'arte che usate così, in questo stesso modo. L'opera d'arte che ricordate quando pensate ad un'opera d'arte. In poche parole, l'opera d'arte più bella che abbiate mai visto. Non lo so, ma se ce l'avete, io sono qui. E il mio numero è sempre quello lì, è sempre 800240024 0024 per chiamare in diretta, oppure mandate degli sms al 349-238-6666. So che è un po' come il gioco dell'isola deserta e cosa ci porteresti, un film, un quadro, un film, un libro, una canzone, però non è esattamente la stessa cosa. È semplicemente un'opera d'arte, qualsiasi essa sia, un quadro. Mi sono accorto che sul profilo Facebook, quando ho parlato di opera d'arte, tutti quanti no, però una grandissima percentuale ha caricato foto di quadri, però chiaramente si parla di opere d'arte in senso lato, per cui va bene un quadro, chiaramente va bene una fotografia, va bene una scultura, ma anche appunto una canzone, anche qualcosa che invece opera d'arte in teoria non è catalogabile come opera d'arte, però invece forse lo è. Emilio ad esempio mi ha scritto gli 11 tocchi di Diego Armando Maradona, che io credevo fossero 13, tu figurati, e invece c'erano 11, quelli in Argentina e Inghilterra. È il primo gol giusto, perché il secondo lo fa con la mano. Tra l'altro di quella storia lì, di quel gol lì, chiaramente ci sono aneddoti a strafottere, però mi ricordo un'intervista a Valdano, attualmente cos'è, DS del Real Madrid, che giocava quella partita ed era di fianco a Maradona e lo segue per tutto il campo mentre lui attraversa, dribblandosi anche le linee del campo, e alla fine pare che Maradona abbia avuto il coraggio di dirgli nello spogliatoio: guarda Jorge, io giuro te la volevo passare la palla, è solo che non ho trovato lo spazio per farla. Che faccia di merda. 800240024 349 238 6666, l'opera d'arte più bella che vi ricordiate. Titta mi scrive: il campanile di Giotto, Daniele, il bacio di Klimt, Stefano, il viandante sul mare di nebbia di Caspar Friedrich, Paola, l'estasi di Santa Teresa del Bernini, Valeria, il mangiatore di patate di Van Gogh, Fabio, lo schiavo morente e lo schiavo ribelle di Michelangelo. Che sono un unico quadro o sono due? Manco Bonini lo trovo impreparato, ma Viola sicuramente lo capirà. Se lo schiavo morente e lo schiavo ribelle sono un'unica opera d'arte. Vittorio, la Monna Lisa, Roberto, la Ronda di Notte di Rembrandt. Ugo la Cappella Sistina. E poi Michele mi scrive il Movimento Cassina. Tra l'altro il Movimento Cassina, David Cassina è andato, credo che vada, non dico in pensione, si dice in pensione, però si ritirerà da, a breve, la notizia di qualche giorno fa, dalla ginnastica o comunque dallo sport, dopo, credo dopo la fine di questo campionato si ritirerà. Io ho avuto la fortuna di vederlo una volta in allenamento, Igor Cassina. Igor Cassina appunto è passato alla storia non solo perché ha vinto medaglie, in particolar modo una medaglia d'oro olimpica, ma perché ha inventato un movimento che porta il suo nome. Io l'ho visto fare quella roba lì una volta in diretta dal vivo e la cosa impressionante è il rumore che fa un corpo umano che si muove a quella velocità nello spazio vuoto. Quello a tutti gli effetti è un'opera d'arte. Se ne avete qualcuno che qualcosa che a cui voi pensate anche solo per rallegrarvi la giornata, 80024 0024, il Cristo velato di Giuseppe San Martino, Caterina, la cattedrale di Santa Maria a Cracovia, Luisa, la Madonna dei palafranieri del Caravaggio, Lorenzo, la Madonna del Cardellino, tre quarti non li conosco, Loredana, la Fontana di Trevi ce l'ho, Rudy ce l'hai anche tu la Fontana di Trevi, Simona, la fibula d'oro della tomba etrusca a Regolini Galassi del VII secolo a.C., questo figurati, manco Viola ce l'ha, Chiara, amore psiche del Canova ce l'ho, Francesca, Apollo e Daphne del Bernini, insomma ce n'è una marea, 80024 0024, 349 238 6666. Perché si parla di un'opera d'arte quest'oggi? Per questo motivo qui. Insomma, sarà la biblioteca, sarà quel che vorrete, però il trip dei libri è ufficialmente partito. Da quando passo le mie mattine in biblioteca per sostituire Giovanni Denaro, ormai mi sembra, come si direbbe in piemontese, non so se ce l'avete presente, voglio solo più leggere libri. Mi sembra di non avere mai desiderato così fortemente prendere in mano un libro e leggerlo senza fermarmi, dall'inizio alla fine. Appena ho 5 minuti liberi, vado nel retro, in mezzo agli scaffali pieni di volumi. Li osservo come se fossero un monumento. Ecco, il problema però è che, a differenza di una statua o di un palazzo, non basta stare lì a guardarli. Devi sceglierne uno e metterti a leggerlo. È solo che sono bloccato. Non so quale prendere, cioè non so quale scegliere. Ho la sensazione che scegliendone uno mi perderai tutti gli altri. E poi soprattutto ho una specie di timore. È come se avessi paura di sentirmi piccolo, inutile. È un po' come quando da bambini ci troviamo vicino a un compagno di classe che è troppo bello o troppo bravo. Come se quel paragone lì noi non fossimo in grado di reggerlo. Come se la sensazione che c'è qualcosa che è evidentemente migliore di noi fosse inaccettabile. Facesse perdere di senso ad ogni cosa. Ecco sì, come se ad un tratto fossimo invisibili. Stamattina nonna Papera è entrata nell'archivio proprio mentre io ero lì immobile a fissare uno scaffale. Mi ha chiesto se stavo bene e prima io le ho detto di sì. Poi però ho visto che lei rimaneva lì a guardarmi e quindi ho provato a raccontarle grosso modo quella strana sensazione che stavo vivendo. Lei mi ha sorriso, ha detto che una cosa così può succedere, che anche a lei è successo qualche anno fa. Le ho chiesto che cosa fosse esattamente e lei mi ha risposto che non lo sapeva molto bene, però secondo lei si avvicinava a quella che chiamano la sindrome di Stendhal. Mi ha spiegato che quella è una forma di ansia che provoca tachicardia, provoca capogiro e colpisce quando ci si trova di fronte a un'opera d'arte di straordinaria bellezza, specialmente se è compressa in spazi ristretti. Mi ha raccontato che si chiama così perché ne fu colpito Stendhal a Firenze durante il Grand Tour qui in Italia nel 1817. Io sono corso subito al computer e ho cercato meglio di che cosa si trattasse. E ho scoperto che Stendhal, per descrivere il suo stato d'animo di malessere, ha scritto così. Ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni celesti date dalle arti e dai sentimenti appassionati. Uscendo da Santa Croce in Firenze, ebbi un battito del cuore. La vita per me si era inaridita. Camminavo temendo di cadere. Ecco lì, come al solito, ho ripreso contatto con la realtà e ho capito che probabilmente ero un imbecille a pensare di aver avuto la sindrome di Stendhal. Ero scemo ed ero pure presuntuoso. Credo che alla fine si trattasse semplicemente della stessa paura che avevo da bambino, quella di prima, quando c'era qualcuno più bravo e più bello, ed era la paura di sentirsi invisibile. Ed era una paura che io avevo già provato, spesso, anche in età adulta. L'ultima volta ero a New York, ero al MoMA e stavo guardando una foto enorme e illuminata. You always say you shouldn't be here. L'uomo seduto di spalle è sullo sfondo. È quasi invisibile, immerso com'è nell'invadenza dell'arredamento fatiscente. È nero. Dal soffitto del seminterrato penzolano 1369 lampadine. Così dice il talloncino accanto alla foto. Le finestre larghe e basse che lambiscono il soffitto sono oscurate da tappeti. Lui è chino, in canottiera. Tiene i gomiti sulle ginocchia e asciuga un pentolino. Intorno dappertutto vecchie sedie, una branda per la notte, poltrone sfondate, una piastra elettrica, una grossa radio, un carrellino per la spesa e 1369 lampadine accese che illuminano ogni cosa. La fotografia si intitola After Invisible Man. L'autore invece si chiama Jeff Wall, è canadese e fa scatti posati. Ricrea delle situazioni che sembrano reali, ma che reali non sono. Lo fa in teatri di posa, pagando degli attori che facciano i modelli. Tutto questo ovviamente io non lo so. Lo sto leggendo sul talloncino a fianco alla fotografia. Il talloncino dice anche che questa foto l'ha scattata dopo aver letto un libro di Ralph Ellison che si intitola proprio L'uomo invisibile. Il libro racconta di uno studente nero del sud che arriva a New York e si accorge di essere invisibile agli occhi degli altri, cioè come se lui non esistesse. Vive in un seminterrato e lo illumina con un numero esorbitante di lampadine, come a cercare di illuminare quella sua solitudine. I frequentatori del museo intanto si alternano accanto a me. Osservano la grande foto retroilluminata e poi se ne vanno. La mia guida, quella che ho in tasca, dice che per visitare il museo d'arte contemporanea più famoso al mondo occorrono 6 ore e 30 minuti. Occorrono 6 ore e 30 minuti se si dedica ad ogni opera una media di 2 minuti. Ad occhio e croce mi si sono già affiancate almeno una decina di persone. Questo vuol dire che sto osservando un'enorme foto da almeno 20 minuti. Non lo so, forse è la luce che arriva da dietro la fotografia ad essere troppo forte. Forse sto osservando da troppo tempo l'uomo seduto di spalle in fondo alla foto. Forse sto impallidendo io, naturalmente, non lo so, però un inserviente mi si avvicina, mi chiede qualcosa, però non capisco il suo inglese, non sento la sua voce e rispondo con il solito yes. Dopodiché perdo i sensi. Esco dall'infermeria con un bicchiere d'acqua e zucchero. Mi ripiazzo davanti alla foto illuminata dalle sue stesse lampadine. Leggo ancora la didascalia sul muro che parla dell'uomo che illumina con la sua solitudine. Mi sento eccitato e come frastornato. Vorrei trovare un modo per fissarla, cioè per non perdere questa immagine. Perché io so già che se me ne vado, tra pochi minuti, o tra poche ore, o tra qualche giorno, io mi dimenticherò di quell'immagine. Scorderò i contorni del monolocale disordinato e di quel suo inquilino lì di spalle. È come se per continuare a desiderarlo io dovessi averlo. E allora faccio un passo, poi ne faccio un altro. Scavalco la corda rossa che serve a tenere i visitatori ad una distanza di sicurezza dalle opere. E quando sono ormai pericolosamente vicino, una mano mi afferra per un braccio e mi spinge indietro. È l'inserviente di prima. Mi accompagna con sdegno verso l'uscita, mi fa recuperare il cappotto al guardaroba e mi saluta con un tono che sembra un non farti più vedere. Sul marciapiede guardo le auto che passano, respiro a fondo e l'aria fresca mi risveglia. Mi sento un cretino, mi vergogno per quello che ho fatto e mentre cerco di capire che cosa mi sia successo esattamente, mi incammino verso casa. She could love and she fights for her life as she puts on a coat and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours and she fights for her life as she goes in the store. Thought she has caught by a thread. She pays for the bread as she goes. Nobody knows. Nobody knows. Tiri avanti per anni, sapendo che c'è qualcosa che non va. E poi scopri all'improvviso di essere trasparente come l'aria. Dapprima ti dici che è tutto un lurido scherzo e che ciò è dovuto alla situazione politica. Ma nell'intimo vieni a sospettare di essere tu stesso il colpevole e te ne stai, nudo e tremante, dinanzi ai milioni di occhi che ti guardano attraverso, senza vederti. È questa la vera malattia dell'anima, La lancia nel costato, la tirata per il collo attraverso la città piena di teppaglia infuriata, la grande inquisizione, l'abbraccio della ghigliottina. Questo libro si chiama L'uomo invisibile, pubblicato in Italia da Einaudi, l'autore si chiama Ralph Ellison. È un bel libro che parla di invisibilità, ovviamente, e soprattutto parla di un uomo. 80024 0024 349 238 6666. Opere d'arte, a parte i consigli, fuma meno, caccia, ti ringrazio ma non fumo. Il Signore degli Anelli, i tre film, The Dark Side of the Moon, Paolo da Prato, Il Ghiacciaio Perito Moreno, Lucio, un'opera d'arte culinaria, La Cassola che cucinava mia nonna, nessuno ne ha mai fatto una degna riproduzione, ciao Cesare, qui quindi è gente di Novara, Larry Bird quando giocava nei Boston Celtic, Caravaggio, la conversione di Matteo, San Siro, Inter Barcellona 3-1, so che condividi, andiamo avanti, Andrea Scegnè di Umberto Giordano, una canzone? Ah, non è una domanda, è una canzone. Grazie di Gianna Nannini. Possibile? Il deserto del Nevada o il poster di Obama fatto da Shepard Fairey, Fairey credo che si dica. 80024 0024. Andiamo a sentire invece Alfonso da Latina. Pronto Alfonso? Ciao, come stai? Ho visto l'autoritratto di Van Gogh al Museo Louvre di Parigi. L'autoritratto di Van Gogh è quello in cui chiaramente è lui col cappello, giù o no? Non ha il cappello? Sì, è quello col cappello. Sì. Senti, ed è la prima cosa che ti viene in mente, Alfonso, quando pensi a un'opera d'arte? Sì. Tu sai, erano bellissimi i colori per questo. Senti Alfonso, tu sei uno che frequenta l'arte moderna, antica, contemporanea, oppure ti è capitato di entrare in un museo come a tutti? No. Ogni tanto quando vado a fare dei viaggi preferisco andare dentro i musei. Chiaro. Senti, che lavoro fai Alfonso? Insegno. Insegni che cosa? Insegno educazione fisica. Ah, ok. Quindi diciamo, temevo insegnassi tipo storia dell'arte, dicevo, vabbè, quindi non vale. Alfonso, ti ringrazio molto, Alfonso, buona giornata. Ciao. Ciao Alfonso, forse ciao. Alfonso ha bisogno di pensare un pochettino all'autorità di Van Gogh per tirarsi un po' su, perché lo sentivo un po' abbacchiato. Andiamo avanti, visto che mi piace leggere questi elenchi lunghissimi. Il deserto del Nevada, la costa dei Paesi Baschi, l'ho già detto? No, costa dei Paesi Baschi. Guernica, San Siro Inter Barcellona 3-1, ragazzi, però basta, perché altrimenti poi proprio oggi che c'ho Rudy davanti, e come diceva il mio allenatore, non è importante quello che hai vinto, ma quello che vinci. La cupola del Guarini, prima di Piazza della Signoria. Ah no, scusatemi, ho messo insieme due messaggi. La cupola del Guarini, prima dell'incendio, mentre bruciava piangevo come un bebè. Piazza della Signoria di notte, la voce di Pavarotti nel pieno del suo fulgore, sul fulgore, Ugo da Carrara. 80024 0024, 349 238 6666. Un'opera d'arte, pensateci e raccontatemela, ditemi qual è quell'opera d'arte a cui pensate quando avete voglia di pensare ad una cosa bella. Sandro, è da tempi del liceo che mi piace la Nike di Samotracia. Consuelo, la donna del bagno di Botero. Renata, la Pietà di Michelangelo. Maya, la costa dei trabocchi. È un quadro? No, sarà la costa dove ci sono i trabocchi, giusto? Vabbè, non lo sa nessuno di là. Intanto, prima di dare la linea alla borsa, però, lo schiavo morente e lo schiavo ribelli sono i due prigionieri. Sono sculture diverse di i due prigioni? Sculture diverse di Michelangelo che si trovano al Louvre. Perfetto, perché io credevo fosse un quadro, invece è una scultura. Invece i trabocchi, è la cosa dei trabocchi in Abruzzo. Io sono qui. Oggi si parla di opere d'arte e in qualche modo oggi ci siamo nella foto. Siamo a tavola, c'è un piatto che è il soggetto di questa fotografia. Intorno ci sono le tipiche cose che ci sono su un tavolo, probabilmente di un ristorante o di un bar. C'è un posacenere, quindi non siamo in Italia, oppure siamo all'aperto. C'è un bicchiere, c'è un portatovaglioli, c'è un taccuino per gli appunti e un cellulare. Al centro invece c'è un piatto con due uova fritte, o come si dice dalle mie parti, due occhi di bue, e sotto, non lo so, è una specie di zuppa, potrebbe essere una zuppa valdostana o dei tacos, credo. Alberto Fusi, 28 anni. Nella foto sono a Puerto Escondido. Sono le 8:30 di mattina e sono seduto in riva all'Oceano Pacifico messicano. Intorno solo pescatori che rientrano dal mare. E davanti a me un piatto succulento di pollo, tacos e queso con uova sopra. Io sono qui. Era esattamente la zuppa valdostana, direi. Ci avevo proprio azzeccato. Andate a vedere la foto di oggi, che a modo suo è una, non tanto la foto quanto il piatto, è una piccola opera d'arte. Allora, come si dice al 349-238-6666, guardare il panorama scendendo il Po con una barca a remi, lo scudetto dell'Hellas Verona. Stefano, più chiedo asilo, meno caccia. Questi sono Cappe e Drago che mandano questi messaggi, o è l'uno e l'altro. La Bibbia, il Salmo 25 di Davide, piazza San Pietro di sera, il Cristo che protegge San Paolo do Brasil, il pan di zucchero credo che sia quello. Tango di Nefelis, una canzone dolcissima, ogni volta che lo ascolto mi ci perdo dentro. Il Ritorno delle Passioni è un album di Massimiliano La Rocca. Questo è Massimiliano La Rocca che l'ha scritto sto messaggio. Non so chi sia Massimiliano La Rocca, Adriano, e purtroppo non so nemmeno cosa sia Il Ritorno delle Passioni. Milan Inter 6-0, ma quale Caravaggio, Edwidge Fenech ai bei tempi o la Bellucci di oggi? Amore Psiche del Bernini, la cremolata di fragole con panna di Messina, Roma vista dall'aereo di notte, la ronda di notte, che non spero, non l'ho già letto, credo sia un quadro, perdonatemi, la canzone Dancing di Elisa, Miriam da Vicenza, il Grande Torino, poi ce n'era un'altra che non mi dispiaceva, che era dov'è? Adesso la trovo, L'Impero della Luce di Magritte e il Fondoschiena di mia cognata Luciano da Como. 800240024, andiamo da Bruna da Brescia. Pronto Bruna? Sono io. Ciao Bruna, sei tu e io sono Matteo, quindi ci siamo. Sono una vecchiona. Quanti anni hai, Bruna? Sono troppi. Ma tu dimmelo, tanto. No, perché così non sono neanche riconosciuta. Ne dimostri 45, Bruna. Come dice? Ne dimostri 45. Sì, so che dalla voce non dimostro tutti gli anni. Quando mi vedono, sì. E invece quanti ne hai? Ne hai 20 di più? Ne ho 77. Ma ne hai 77, ma Bruno, ma 77 oggi è come, sì, è come oggi i 40 di ieri. Sono stato sabato alla Pinacoteca di Brera e sì? Sicuramente sono più giovane della settimana scorsa. Sei anche più giovane. Soprattutto ai vecchi servono moltissimo. Sei anche più giovane del Mantegna. Soprattutto chi ha visto poco e ha avuto poco tempo per affinare queste cose. Bruna, dimmi cosa hai visto alla Pinacoteca di Brera. Le tre cose più importanti, cioè? Il Mantegna, uh-huh, che volevo sapere perché era così importante e ho capito. Perché l'hai il visto? Caravaggio e Maus, sì, la cena, perché io non sono molto religiosa, perciò mi dimentico certe cose. E l'altro qual è invece? Mi dimentico il quadro e l'altro è la mia passione, cioè? Piero della Francesca. Bruna, l'ho visto a Urbino e non l'ho più dimenticato. L'hai conosciuto? Quindi ne hai di anni, Bruna, in realtà? No, ne ho tanti io di anni. Niente, era una battuta orribile, Bruna. Ho poche esperienze, che però capisco. Non è venuta. Che sì. Anche con la vecchiaia si può tirare fuori qualcosa che è rimasto molto, molto, molto nascosto. Ma questo, guarda, ne siamo. C'era, perché è bello. Guarisce tante malattie. Bruna, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao, io grazie. Ti ascolto sempre perché sono sola e vecchia. Beh, ecco, però se dici così a me mi cala un po' di tristezza addosso, però in realtà io sono contento perché anche la mia nonna, che ha 90 anni, è anziana ed è, non è da sola perché c'è mia mamma e mi ascolta tutti i giorni, quindi ti immagino un pochettino come una nonna, Bruna. Vabbè, sì, l'ho detta. Tanto. Pure questa l'ho detta. Bruna, ti ringrazio, altrimenti vado, siamo tutto il giorno io e te. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao. Andiamo, io Bruna l'avrei tenuta tutto il giorno, però non potevo. Andiamo da Roma da Lorenzo. Pronto Lorenzo? Buon pomeriggio Matteo. Buon pomeriggio, dimmi al volo qual è l'opera d'arte che è per te l'opera d'arte. Le ninfee dell'Orangerie di Monet. Quelle nella stanza ovale. Quelle nella stanza ovale. Lorenzo, grazie mille, buona giornata. A te. Ciao, andiamo a Perugia da Giovanna, pronto? Pronto, eccomi qua. Ciao Giovanna, anche tu sei... quanti anni hai? Io ce n'ho 47. Benissimo, così no, perché temevo che cominciassi a dirmi che sei sola e triste e a quel punto io chiudevo qui il programma. No. Dimmi qual è la tua opera d'arte. Allora, Mitra di Veglio è un marmo ritrovato dalla Guardia di Finanza, recuperato nel 2009 a giugno, sì? Stava per partire per il Giappone purtroppo, però finalmente è a Villa Giulia attualmente, 1,60 per 1,60, una cosa stupenda. Giovanna, grazie mille. Prego. Buona giornata, ciao. Andiamo Mauro, dalla provincia di Torino. Pronto Mauro? Sì, pronto, ciao Matteo. Ciao, la tua opera d'arte è opera d'arte. La mia opera d'arte è un po' di parte. Comunque, la Ducati 1198. Oh, che è 1198? È la più bella moto di tutti i tempi. Sembra la Marilyn Monroe. Di che anno è la 1198? È la 1198 di adesso. Temevo mi dicessi del 1198 per come no, sei 1198, partito. No, 1198 è la sigla della cilindrata. Immagino. È quella praticamente con cui Troy Bayliss ha vinto 2 anni fa il mondiale Superbike. Quanti cavalli ha quella moto lì? È quella di Troy Bayliss. No, la tu. Cioè, aveva 205 cavalli. Va bene. Quella stradale. Stradale ne ha 170. Mauro, grazie mille. È la mia moto praticamente attuale, che per me è una montante. Beh, lo immaginavo. Ciao, grazie. Ciao, Matteo. Grazie. Andiamo a Modena da Andrea. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, Andrea. Dimmi qual è la tua opera d'arte. Opera d'arte. Il ragazzo col porcino di Chardin, visto al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. E si può vedere ancora lì? No, c'era fino al 31 gennaio l'esposizione di Chardin esclusiva per il Palazzo dei Diamanti. Andrea, grazie, ciao. Andiamo da Mario a Como. Pronto, Mario? Pronto, buongiorno. Ciao. Complimenti perché state crescendo sempre nel vostro programma. Ma quindi parli del programma o di Radio 24? No, programma vostro. Però anche Radio 24 sta crescendo. Beh, certo, Radio 24, se no non vi voi. Se no di cosa parliamo? Dimmi qual è la tua opera d'arte preferita, Mario. La mia opera d'arte è La Dolce Vita. Di Federico Fellini. Perché ha dato una risposta alle famosissime 3 domande: da dove veniamo, dove siamo, dove andiamo. E qual è la risposta? La risposta è dove siamo, è stato fondamentale. Mario, grazie mille, buona giornata. Tanto. Ciao, alla prossima. Intanto mi scrivono Yelena Isinbayeva, che forse è quella che fa salto in corre, non fa salto con l'asta? Isinbayeva, va niente, c'è una mente di redazione, non uno che ne ha, quella con l'asta, salto con l'asta. I mercati di Traiano al tramonto che bruciano, si caccia ma se non sai leggere lascia perdere. Andiamo da Maurizio a Milano. Pronto Maurizio? Pronto Matteo, ciao. Ciao, dimmi qual è la saluto, tua... Saluto te, saluto anche Matteo, mio figlio, che è quello a cui è dedicata la mia opera d'arte. Nel senso che io credo che l'opera d'arte più bella a cui ho assistito io nella mia vita è stato il parto del mio primo figlio. Maurizio, guarda, ho preso te al telefono perché ne sono arrivati tantissimi dei messaggi come questi. Ti ringrazio molto, buona giornata. Grazie a te, ciao Matteo. Un'ultima telefonata lo chiedo a Tiziano perché finalmente ce n'è una che conosco e ho visto, e quindi Luisa da Catania. Pronto? Pronto. Luisa, ho visto il satiro danzante a Mazzara del Vallo, quindi volevo parlarne con te almeno. È una cosa emozionantissima, veramente. Luisa, ti ricordi anche come è stato trovato e quando? Perché c'è una storia. Il quando, credo non molto tempo fa, dai pescatori, credo, perché si è rimpigliato nella rete di alcuni pescatori di Mazzara del Vallo. Ed è ancora visibile in una chiesetta che è stata risistemata apposta per lui, o sbaglio? Sì. Luisa. È bellissimo perché puoi girarci intorno e puoi vederlo da tutte le parti e da ogni parte. È magnifico. È vero? È verissimo. Grazie Luisa, buona giornata. Aspetta, senti, vorrei dirti che ci sono altre 2 opere d'arte che sarebbero però 2 rappresentazioni teatrali. Luisa, guarda, purtroppo non ce la facciamo più perché non ho più tempo. Devo mandare... No, non facciamo neanche in tempo a mandarlo. Sì, ce la facciamo. Mandiamo la parte iniziale come parte finale del libro che riguarda la fotografia di cui vi parlavo. È un uomo invisibile. Io sono un uomo invisibile. No, non sono uno spettro come quelli che ossessionavano Edgar Allan Poe. E non sono neppure uno di quegli ectoplasmi dei film di Hollywood. Sono un uomo che ha consistenza, di carne ed ossa, fibra e umori. E si può perfino dire che possiedo un cervello. Sono invisibile semplicemente perché la gente si rifiuta di vedermi. Come le teste prive di corpo che qualche volta si vedono nei baracconi da fiera. Io mi trovo come circondato da specchi deformanti di durissimo vetro. Quando gli altri si avvicinano, vedono solo quello che mi sta intorno, o se stessi, o delle invenzioni della loro fantasia. Ogni e qualsiasi cosa, insomma, tranne me. Il pan di zucchero non è a San Paolo e non c'è su il Cristo, ignorante, Sergio da Milano. E poi, per ultimo, vorrei leggervi quello di Adriano da Cremona, il lato B di Jennifer Lopez. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?